compri Amazon, invece ciao Marco, ciao Natalino, Amazon addirittura non ti fa firmare niente, ti lascia il pacco e se ne va senza niente, senza nessuna bolla. Casomai quando fai il contrassegno devi fare così, ci scrivi ritiro con riserva, tutto lì. Vai Natalino, buonasera. E non prenderò più niente. In contrassegno me li mandano le cose adesso. A chi non piglierà giù più nulla. E li posso scrivere. Salvo verifica di controllo. In modo che se non va bene la cosa me la cambiano. Oppure mi restituiscono i soldi, caro Giulio. Perché a me quando io facevo il corriere, me lo facevano scrivere salvo verifica di controllo, e cioè se non andavi di culo a tabù. Appunto, te lo sto dicendo, nella bolla tu una volta che firmi la bolla come ritiri e ci aggiungi ritiro con riserva, vuol dire quello, vuol dire in caso di qualche anomalia puoi sempre reclamare. Vai, Marco, allora io domani non posso stare tranquillo, perché domani io devo ricevere una tastiera elettronica, Marco. Ciao Giulio, ben entrato. Sì, allora mi ricordo che c'era questa voce, adesso dipende dal tipo di corriere, non so se con Poste Italiane o se vale anche con Bartolini e tutti gli altri, no? Però Natalia, io sapevo che per apporre, sai chi te lo indicava quello, Media Globe di farlo, a priori anche se il pacco non era né danneggiato, né forato, né graffiato, perché io sapevo che per mettere questa cosa sia scelta con riserva, con la roba lì, riserva di controllo, il pacco deve essere un minimo danneggiato, ma un minimo, tipo un angolo schiacciato, una sbucciatura, un foro, che ne so. Perché a seconda del corriere che trovi, e lui dice no, il pacco è integro, guardi qua, il pacco è bello integro, lei non può farlo questo, dipende che corriere trovi, cioè dipende dal tipo di corriere, no, dei vari privati o delle poste, e poi dipende dal corriere che trovi, perché se trovi quello tirioso dice no, il pacco è a posto, lei non glielo consegno se lei vuole mettere questo sulla bolla. Capito? E sono indisponenti certi, ne ho conosciuto uno di SDA, che era un gran caffone peraltro, vabbè. Riprendi Natali. E allora dico, allora di Romagni, se non scrivi gli squidi guiu. E lo rifiuto, non li biglio. A parte che adesso comprerò sempre e solamente in contrassegno. Così scrivi, gli scrivo io. E se no non rubavo nemmeno. Vabbè, però se l'hai pagato già in precedenza, cosa fai? Te lo fai arrivare per non... lo hai pagato prima, te lo fai arrivare per rifiutarlo. E lì... E comunque c'era un venditore di roba amatoriale che diceva di scriverlo a priori, si accetta con riserva di controllo. Per evitare, loro non, però sai perché lo dicevano, perché non volevano grane loro, cioè loro ti dicono noi lo spediamo che è perfetto come ci è arrivato. Non vogliamo sapere niente, cioè vogliono addebitare al corriere tutti i casini nel caso, vabbè. Riprendi Giulio che vado a prendere la bottiglia d'acqua. Break! Un attimo il break. Caro Grego, però io faccio così, io casa non ne capo più. Prima di pagare controllo. E non solo, perché il coso, il 3009 è nuovo, io ho il computer che c'hanno ancora il cellophane, solo l'apparecchio non funziona. Avanti il break. Buonasera a tutti, stavo aspettando che non facevo te venire avanti. Natali, anche se tu lo controlli, poi vai a provarlo e non funziona, è la stessa cosa, magari esteticamente è bello, va bene, e poi lo porti a casa e non funziona, è sempre la fregatura c'è, capito? Sì, che succede qua a Sassari, si cava e si fa. A me avevamo cambiato pure un alimentatore, che però c'ha tutta una storia. Allora io avevo tirato questo alimentatore da 50 ampere, non era lo switching, era di quelli con gli strumenti, eccetera. E fatto sta che questo alimentatore mi è arrivato, come sono andato ad attaccarlo, ha fatto pum, come l'ha attaccata la presa. L'ho subito staccato, l'ho riconfezionato e gliel'ho rimandato indietro. E mi ha detto che mi avrebbe rimandato l'alimentatore nuovo. Praticamente questo alimentatore non arrivava mai. L'ho richiamato, questo qua, mi ha detto io l'ho spedito, l'alimentatore nuovo l'ho spedito. C'è la tracciabilità e tutto. Beh, fatto sta che nemmeno le poste riuscivano a rintracciarlo. Ho dovuto ricorrere sempre a un amico che tramite conoscenze e cose è riuscito a beccarlo dov'era, capito? Era fermo in un posto, mi ha messo in dimenticatoio e non me l'avevano mai fatto arrivare. Già, sei amplificatissimo, se poi appena appena si capisce meglio anche la modulazione. Ti volevo dire, prima ho fatto il tuo esempio, quella fregatura che avevi preso tu, no? E però ho fatto anche l'esempio di come volevi per gli acquisti futuri, cioè tu avevi detto che volevi aprire, per evitare fregare, aprire il pacco davanti al corriere, se era tutto a posto che c'era la merce, allora firmare. E io ho detto non funziona così però. E sarebbe bello che te lo facessi aprire davanti e poi firmare se è tutto a posto. Non, lì praticamente o firmi o non ti dà il pacco, capito? Magari fosse come hai detto tu. Adesso rilancio, vediamo, Giulio, vai avanti. L'unica cosa è contrassegno bisogna ordinare. Ciao Gianni, comunque da Amazon io ho ordinato tantissime cose, quasi tutti i giorni qui arrivano pacchi e non ho avuto mai nessun problema. Forse perché Amazon ha gli spedizionieri loro personali, non sono altre persone da altre parti, arrivate da altre parti, sono persone che sono praticamente affiliate nella stessa ditta, cioè Amazon. Infatti domani, ripeto, devo ritirare una, che già sa, sai, tra l'altro, dalla tracciabilità, devo ritirare una tastiera elettronica, devo ritirare, un pianoforte praticamente, dai, come la vuoi chiamare. Per cui domani me la portano, so che già la Sassari, però la consegna me la fanno domani. Vai Gianni. Sì, da Amazon sono seri, la verità, se poi il pacco non va bene, glielo rispedisci e te lo rimandano nuovo. Mio figlio aveva avuto problemi con la PlayStation 5 e gliel'hanno cambiata, gliel'hanno mandata nuova, capito? Adesso non si sa se era perché era difettosa o qualche temporale, qualche cosa, perché lui quando la stava usando c'è stato un temporale, però la stava usando e poi il giorno dopo non ha più acceso, quindi non è detto che sia temporale. E niente, gliel'ha rimandata indietro, senza storie, senza nulla, l'ho preso e gliel'hanno mandata nuova, hanno ritirato quella e gliel'hanno mandata quella nuova. Sì, ma è così, ma io avevo rispedito indietro, avevo preso un PMR, avevo preso, e questo PMR mi ha funzionato 4-5 giorni, una cosa del genere, e poi, può darsi che ho sbagliato io anche, e mi si è bloccato, cioè si è inserita la chiave di blocco, sai, come i canali, no? Per non spostarsi i canali, c'è la chiave di blocco nel PMR. Beh, ti dirò che ho subito telefonato a loro, sono venuti, ce l'hanno preso loro il pacco, io l'ho rinnovo confezionato, no? Se l'hanno preso il pacco, ce l'hanno portato indietro in ditta, dopo 2 giorni mi hanno restituito i soldi senza nessun problema. Gianni, sì, te ne siete con i soldi. Marco poi ha preferito ricomprarselo, e anche perché la PlayStation 5 non costa 10 lire, costa un bel di soldi, costa sulle 500, roba del genere, quindi non è una cosa da trascurare. Se l'ha ricomprata, c'era anche casino perché in quel periodo non si trovava da nessuna parte, capito? Mi pare che l'ha presa in Giappone, roba del genere, o Cina, Giappone, perché qua non se ne trovava. Certo che sì, vabbè, dai. Comunque, dai privati sicuramente meglio non comprare mai niente, non si sa mai, l'usato, sì, bene o male bisogna affidarsi ad una ditta proprio che esiste, e poi prima di vedere se la ditta esiste, tu non fai altro che controllare al computer e vedi se c'è il negozio, mi spiego, tanto per fare fare un esempio, io voglio sapere se Gianni Merlo, per dire, abita in quella via, faccio l'esempio di un negozio, e tu poi vedi tutta la strada e tutto il negozio a computer, non c'è problema, oggi vedi che se ne possono fare in quantità, vabbè dai, avanti Natalino. Natalino si sta caffeinizzando sicuramente, c'era anche Luca, io volevo chiedere una cosa ma non la ricordo, vediamo se Gianni si ricorda di ieri invece. Gianni, quando io ho chiesto il controllo, di quant'era la differenza tra un'antenna e l'altra, te lo ricordi? Era più di un Santiago, o sbaglio? L'analogo però se ne pare che era 9-10. Sì, cacchio, guarda, è notevole, io ricordavo 9-5 tipo 9-10, guarda che è un bemmi. Già, allora, quell'antenna lì, quella buona è la Midland, che è simile alla tua, no? È quella che ho dal 2010, più giù di lì. L'altra è marcata Telecom, stessa lunghezza, cambia 3-4 centimetri e basta. La bobina in teoria dovrebbe essere la stessa internamente, eppure guarda la differenza abissale e ti dico già, tutte e due, non è a dire una magari non era tarata per quella base, no, tarate sulla stessa base, svizzata una, messa l'altra e c'era più di un Santiago di differenza, quindi figurati, quindi vedi che le imitazioni sono cavolate, sono porcherie. Probabilmente hanno messo materiale diverso anche, dai. No, la mia va molto bene, io parlo da tutte le parti, va molto bene, per avere la lunghezza che ha va benissimo. Ma infatti io ero interessato, non urgente, ma quando capita, a fare la prova sulla stessa base tua, per esempio andrebbero, vabbè, tarate, però bene o male siamo lì, dai, quando la base fa ben contatto, vedere se addirittura è migliore quella, perché se fosse superiore, ulteriormente superiore, si potrebbe ordinare quella lì, quella che hai tu con la bobina trasparente, dai. Però già i materiali, ma rame, vabbè, sì, può essere smaltato o non smaltato, ma la bobina è sempre in rame, le saldature, e tu dici, vabbè, potrebbero essere fatte anche fredde, a cacchio di cane, l'ultimo in acciaio, vabbè, quello è uguale nelle tutte e due, infatti lo terrò quella come, giusto lo stile d'acciaio puoi salvare, capito? Come ricambio. A me è arrivato tutto insieme, l'antenna con la base magnetica, tutto quanto insieme, e la base magnetica è particolare, non è come tante altre che trovi subito la calavita, te l'ho spiegato, c'è tipo la carta in alluminio sotto che copre la calavita, che fa da massa, e sicuramente è quello lì proprio che gli dà un input in più, ecco. Sì, infatti sembrano tutte uguali, invece no, io ho visto base magnetiche, vabbè, un po' più economiche, di tipo quella del Maxcom, ti dico lì kit emergenza, la tua non so se era così, però in quella Maxcom c'era proprio la calza con una lamella di rame, era saldata alla base magnetica, proprio alla calamita, cosa che in altre non è, perché in tutte le altre che ha avuto la calamita era isolata dalla massa, addirittura la calamita era incollata alla base magnetica stessa con della resina epossidica, certi hanno il foglio di alluminio e certo no, e quindi quello qualche valore, non so che tipo di effetto faccia, però nelle Sirio mi pare, sì, le basi Sirio raccomandano di metterlo. Io per dire era Intec il mio invece che Maxon, però bene o male da SOS, come con la valigetta, come nel Maxon. E praticamente con quell'antennino che c'ha telescopico, ho parlato da Sassari sino a Trattamona, con Sassari tranquillamente. Eia, mi sta cadendo roba, aspetta. Vabbè, riprendi Giulio, aspetta che mi guardo un messaggio. La radio ha migliorato, che ha abbassato. Sì, beh, certo, ci possono essere delle differenze. Comunque Marco, per la cronaca, tu ieri da me arrivavi 9-5 arrivavi, per cui era un buon segnale, non c'era che dire. La radio, vabbè, è la ultima. Vabbè, dai, è arrivato mio fratello già, dai, ti devo lasciare. Aspetta, Tore, un attimo, aspetta che sono rimasto. Mio fratello, devo salutare, dai, ciao Gianni, ciao Natalino e ciao Marco se mi stai ascoltando. se c'è la Luca, anche ciao anche a Luca. Saluto a tutti e riprendi pure già, io chiudo, dai. Ascolto il finale e poi chiudo. Ciao Giulio, dai, buona continuazione di serata. Avanti, Natalino, ci sei. Ciao Giulio, buona continuazione, dai. Buon tutto. Avanti Marco. K Giulio, ci sentiamo, buon proseguimento di serata e alle prossime. E quindi dove eravamo rimasti? Vabbè, di antenne stiamo parlando. Guarda che ce ne sono belle, o comunque le migliori già, almeno quelle marche classiche conosciute erano la Sirio ML145 o la Midland ML145. Tutte le altre sono imitazioni. Per esempio c'era quella marcata President che aveva il filo di rame, pensa, era data per tipo 500 watt in AM e 1000 di picco, col 100 watt uno l'ha sciolto la bobina, o meglio non la bobina, la bobina si è arroventata e si è sciolto il nucleo di plastica su cui era avvolta la bobina. Avevo visto le foto su internet, roba da denuncia. Addirittura, data per 600 watt e non ne tiene manco 100, una cosa allucinante, dai. Vabbè, ma io non la uso per grosse potenze, la uso col baracchino normale, non, a me mi va benissimo così, capito? Non, una bella antenna, a me piace. Mi piace anche come estetica, Marco, l'altra è troppo rosa, troppo grossolana. Cazzo, voglio la macchina dell'autoscontro. E l'altra era imponente come peso, anche lo stile era meno, credo che flettesse meno rispetto a questa che hai adesso. Infatti io perché dal 2010 non l'ho mai cambiata questa? Perché è sempre andata benino, a parte la base vecchia si è rotta, però ho altre due basi, quella da 12 nuova, che è della Sirio, che era abbinata con l'antenna da un metro simile bibanda, no? Che invece è della 27. E poi questa Sirio, la 16, che peraltro non fanno più, è uscita dal catalogo fuori produzione ed è ultra piatta da 16 cm. E ne ho due valide. Le altre, vabbè, non le conto perché è roba tutta integrata negli antennini, capito? Tipo a galletto, però la puoi usare solo con una, con quell'antenna dei tipo vigili urbani. A me quelle lì a galletto non mi piacciono perché si mollano in macchina, se ne scendono da sole, boh, io l'ho avuta e non mi è mai piaciuta, la verità, l'ho messa nella Panda e mi si mollava sempre. Mi con la Talino l'avevamo fatto il lavoro, avevamo fatto il buco nella cappotta, la macchina della mia ex moglie, e un giorno ha detto: cos'è quella cosa che c'è sulla cappotta? E l'antenna, e chi non te l'ha detto di metterla? E l'ho messa io, perché quando la uso io almeno c'è il baracchino. E quindi va bene. Alla fine comunque, vabbè, vedi, non conviene prendere roba di imitazione perché sono fatte più male, cioè. Ma tu devi vedere in questa President, in questo caso questa President 145, sempre la sigla è molto simile, le fanno. Allora, la mia è data per 500 watt PEP, no? Quindi in banda laterale, no? Picco, proprio massimo a crepatura, è una cosa teorica. Quella era data tipo 600 watt continui, tipo in AM o giù di lì, vabbè, fai che sia, però il rame, io ho visto le foto, il rame era molto ma molto più sottile di quella mia, della bobina della mia, e quindi come fai a vedere bobina sottile, rame sottile e dire che tiene più watt di quella mia? Infatti a quello si è sciolta, guarda, non trovo più le foto perché credo che le abbia rimosse o è successo un casino legale, però non le ho più trovate su internet quelle foto lì, però le ho salvate da qualche parte su qualche hard disk. Sì. Beh, io gli ho visto una in diretta di antenna arroventarsi, però c'aveva l'ideale attaccato, si è arroventato e è uscito il fumo proprio, cazzo, cioè una cosa allucinante, e l'ho vista proprio diventare rossa, arroventarsi. Vabbè, comunque, io l'altro 2001 li faccio tanto di cappello, perché da fermo ho fatto dei DX allucinanti, anche con baracchino normale, senza avere né vivere né nulla. È come una Mantova, però per la macchina è troppo pesante, sì che te la metti in un furgone, in un camion, ma in macchina è troppo pesante. Oppure dovresti avere magari uno di quei pick up, roba del genere, lo metti nel ferro e la tieni di lato così, di modo che, però bloccata, non con la base magnetica, perché la base magnetica non viene, è troppo pesante, c'era vento il giorno, stavo andando piano e Marco, piano, c'era vento e il vento è riuscito a strapparmela dalla cappotta, te l'immagini? Però non me lo sarei aspettato, ma tu mi avevi detto che la base poi non era così forte come decantavano sui forum, perché il vizio che hanno è quello che chi ce l'ha ne fa un monumento di quella base lì, quella base della Lemme. No, fortissima, puoi andare a 200 orari, non succede niente, perché ce l'hanno loro, capito? Poi la compri tu, se succede che ti fa anche danno alla macchina. E vabbè, purtroppo bisogna provare di, come dire, se le cose non le provi personalmente, anche i giudizi degli altri possono essere influenzati da tanti fattori. Che vogliono farcela loro, quindi la migliore, capito? Tipo Roger K, Rifidenza, eccetera. Marco, dipende sempre con che antenna viene usata, perché se tu gli metti un'antenna leggera, lì che flette come quella che ho io, capace che non si muova nemmeno, la magnetica, ma quella l'antenna è pesante, capito? È già pesante l'antenna, poi col vento ti puoi immaginare. E la mia flette un bel, per esempio, non è come la 2001. La PLC 800 non si stacca manco se ti ammazzi, c'è della stessa base. Natali, sì, ma in effetti è quello, l'antenna la mia è molto pesante, anzi se sentite qualcuno ne sto vendendo due, una con la magnetica a seconda mano che tra l'altro è tutta tarata eccetera eccetera, e l'altra è nuova di zecca, mai usata. Se pomi, soprattutto a camionisti che loro le usano, capito? Quelle lì, anche per via di watt, no? Vogliono antenne performanti, che regano watt più che altro. E qua ti volevo dire, in alternativa ci sarebbero per antenne grosse, quelle a tre magneti, però diventa una cosa imponente già, cioè non vuole visto quella roba lì. E lasciamo sempre i magneti che c'hanno, quelle antenne sono piccoli, mentre invece quella della Lemme è bella larga e prende tutta la base, quelli sono magneti piccoli, sì ce l'hanno in tre punti, però sono, sicuramente saranno molto più forti, quello sì. Sì, allora per antenne multibanda sono per antenne pesanti, è logico che dovrebbe essere, ce l'aveva Walter quella base lì. Vabbè, sì, può darsi che siano anche magneti da 12 cm o da 10, comunque da 12 già, io mi ricordo, ho già, quella che ho io come la tua, da 1,60 m lì circa, e di serie veniva con quella da 12 cm di Midland e non si è mai staccata, a parte quella volta che ha portato a torre, probabilmente un gabbiano è volato basso, non l'ha vista, e ho sentito stronk e non c'erano né cavi né rami, nulla. E d'altronde mi è capitato dalle parti di San Francesco lì che i pipistrelli si sbattevano contro l'antenna, sentivi ton, ton, cioè sentivi il colpetto e poi oscillare lo stilo. E guarda che di notte un po' ti cagavi. Ma ci sta andando ancora San Francesco a modulare? No, già, diciamo che da quando ho l'antenna sul tetto è chi esce più in macchina. Guarda, giusto ieri ho voluto fare la prova dalla campagna lì di mia zia. E vedo che arriva a Sassari, anche da Torino arrivava, pensa che lui è dalla parte proprio opposta di Sassari, proprio fuori, diciamo, dai. Quindi mettendo anche quella Venom del cacchio sul tetto, anche bassa va bene, arriverebbe senza problemi a Sassari. Te la fa mettere tua zia? Non sopporto i baracchini, mi sa proprio di no. Ma io ho detto usi futuri, cosa ne so io? Usi futuri, non so che ne so. conflitti mondiali, i cellulari vengono a mancare e tu resti isolato, non puoi comunicare con nessuno. Se il cellulare, c'è cosa impossibile, ma se crolla la rete cellulare la gente si suicida che non può più chattare. Ci sono persone che proprio si disperano, io ho visto persone disperate perché hanno preso il cellulare piangendo, facendo, sbattendosi qua e là, e poi praticamente è stato ritrovato, però intanto si al momento che l'ha trovato, come faccio? Sembrava che ne fosse morto qualcuno. Sì, sì, sì, guarda che quei fenomeni del genere anche in Giappone è molto sentito, quelli hikikomori che vivono di computer, roba del genere, o certi che sono dipendenti dalla tipo PlayStation, dai giochi, no? Non hai mai visto quei video in cui su YouTube o il TikTok il padre gli fa a pezzi la console di gioco perché praticamente stanno 20 ore al giorno attaccati e quelli urlando, disperandosi, ma proprio reazioni fuori dal comune, quelle sono vere e proprie patologie di dipendenza, come i giocatori di videopoker o le droghe o tante altre cose. Sì, sì, è così, Marco, diventano dipendenti. Mio figlio non è lo stesso, mio figlio sta attaccato, c'ha queste chat dove parla, dove gioca, con altra gente, addirittura ha amiche continentali, vengono da Milano a trovarlo, eccetera. Perché? Perché c'hanno tutte le sere, come noi facciamo, diciamo, il questo, loro si trovano, parlano e giocano con questi giochi, capito? Sì, è vero, i giochi rispetto a una volta sono interattivi, cioè giochi online, in più puoi chattare live con tanto di cuffia e microfono, ti puoi scambiare messaggi, è migliore, diciamo, è più vivo, però l'importante è che uno non si isoli dal mondo esterno, perché certi, vabbè, l'esempio dell'ikikomori giapponese, però con uno vive di questo e non esce più, non fa vita sociale, proprio non esce di casa o peggio dalla camera, quello è grave, però bisogna intervenire in tempo, qual è la colpa dei genitori che non hanno polso, capito? Ma Marco già esce, c'è la ragazza e tutto quanto, non è che non esca, però già gli piace, capito? Già gli piace, per dire già a volte a casa, no, papà devo andare che c'ho l'appuntamento, devo trovare lui con gli amici miei, capito? E sono cose che lui, è un hobby per lui, dai, però è una cosa in più, non è una cosa che lo rinchiude in casa, perché lui ha una vita sociale normale, c'ha la ragazza, c'ha gli amici, fa cosplay, così si chiama, praticamente ieri erano a Cagliari, c'era la fiera del cosplay, è andato a Cagliari e sono andati tutti vestiti. Quello è carino, molto carino, cosplayer, sì, praticamente si vestono come i loro eroi di film, telefilm, serie animate, è una figata. Beh, quando ero piccolo io non c'erano queste cose qua, forse in Giappone, vedi, in Giappone è tutto nato da lì, credo. Vai Natali. Ehi, capra, io vi ascolto che c'ho la schiena a pezzi. Ma non serve la schiena per parlare. Ah, tu dici, cioè, devi coricarti. No, devo alzarmi dalla sedia. Cioè, la schiena c'ho la mal di pancia, di brutto, mi sono fatto anche una camomilla perché mi ha ascoltato per un po' perché non ce la facevo manco a parlare dal mal di pancia che avevo. Sì, infatti ho fatto l'esempio tu di Paccheggia, che addirittura temevi talmente tanto le fregature che avresti voluto aprire il pacco davanti al corriere e firmare solo se la merce c'era effettivamente, magari si potesse fare. Ma so che in alcune occasioni è stato fatto una cosa del genere, però Marco, sì che ti mettono un cantone al posto dell'apparato che hai ordinato è un conto, non lo accetti, però se tu vedi l'apparato che è ben tenuto tutto quanto, lo accetti, firmi, lo porti a casa, lo accendi e non funziona, cosa fai? Poi magari controlli, c'è l'apparato magari dentro bruciato, cioè esternamente non si vede e potrebbe essere anche vuoto l'apparato, cioè lo c'è, sì, senza scheda, senza nulla. Purtroppo, e comunque è vero che i corrieri adesso come dire, allora nessuno fa più firmare, ma non solo, nessuno accerta più l'identità reale dell'acquirente. Perché qua alle volte arrivano corrieri che qua non sono mai stati, no? O che vengono una volta ogni 10 anni, tipo DHL. Lui bussa, no? Io mi affaccio o esco nel portone e chiede: lei è tale e tale? Io sì, magari lo dico con voce non convinta, no? Basta che dici sì, ti dà il pacco, niente firma, per loro è a posto, capito? Allora ti faccio un esempio, io sono fuori, sono fuori casa, bussano da me, metti uno nel portone, sente a bussare il mio campanello, apre il portone e dice sì, e lei tra dei tali, sì, sono io, e come? Ti dà il coso a posto, e si frega il pacco. Se lo vuoi sapere, l'altro giorno doveva arrivarmi un pacco, praticamente mi ero anche dimenticato, mi è arrivato di sabato, mi ha telefonato, dice ma è in casa? E ho detto sì, perché non mi sta rispondendo al citofono, e te perché c'ho la musica alta e non l'ho sentita, vabbè, comunque apre il portone, sì, mi apre il portone, glielo metto giù, scendo a prenderlo. Oh, sono sceso giù, guardo sulla cassetta delle lettere, non ce n'era, guardo vicino, non c'è, ma se l'avevo fatto, se dove l'avevo messo, proprio davanti al portone. Sì, è vero, è vero. Guarda, anche negli Stati Uniti facevano i video, no, con le telecamere di sorveglianza, vedevi il corriere, e sai che cercano le staccionate, no? Lanciavano il pacco o il cancelletto, no? Con un appena appena di parapetto, no? Sai, tipo quelli per tenere i cani, lanciavano proprio il pacco verso la porta, lanciato così, a rischio di rompersi, eccetera. Oh, vabbè, invece una volta il postino, almeno quelli SDA oppure quelli Poste Italiane, volevano vedere un documento per come dovrebbe essere, accertarsi dell'identità di chi riceveva, poi chi riceveva doveva firmare, almeno firmare su quello elettronico. Però da quando c'è stato il Covid non si avvicinano nemmeno, te lo lasciano anche nel portone mentre tu stai scendendo le scale, a posto, e se ne vanno, capito? Sì, io pensavo che me l'avessero rubato nel frattempo, perché di solito lo mettevano vicino alla cassetta delle poste o sopra, capito? Cosa mi l'ha messo? L'ha entrato nel portone, come non l'ha aperto, l'ha messo dietro e se n'è andato, capito? E poi, come forse ti avevo già raccontato, qua c'era tanti anni fa un ragazzetto che lavorava per SDA, no? Giovane, giovincello, 20 anni o poco più, capelli lunghi. Non c'era nessuno a casa e lo lasciava davanti al pianerottolo o nel portone. Cioè nel pianerottolo appena entri oppure al piano mio che è rialzato, lasciato lì. E tornavo, per fortuna nessuno l'ha rubato, tornavo a casa dopo, che ne so, mezz'ora, un'ora, 2 ore, non saprei, e trovavo il pacco lì, abbandonato nel portone, chiunque poteva prenderlo, e vabbè che non era roba di valore, ma anche 50 euro, 100 euro, sì, capito, non erano 5 euro, 10 euro. Sì, ma poi quello che è, se non è degli altri, è tuo, il pacco deve arrivare è tuo, e lo fanno un po' così questo tipo di servizio. Io mi ricordo che quando facevo le consegne io, che avevo i cesti natalizi, facevo tutto Sassari, Porto Torres, Algheno, ci tornavo anche 2 o 3 volte, poi quando non lo trovavo dopo 3 volte lo portavo in ditta, però intanto ci ritornavo, sì, quando trovavo, ce n'era una, mi ricordo, ogni anno mi faceva penare, perché questa era la dottoressa e tornava alle 10:30, alle 11 a casa, io mangiavo tranquillamente, poi prendevo a Marco, io Marco vedi che portiamo questo cesto per farmi compagnia, e lo portavamo, la trovavamo, me lo porti su, catamuruva, arringa sopra, glielo dico, vabbè, io lo portavo sino a sopra, capito? Sì, cosa che non so nemmeno se siano più tenuti a fare i corrieri, dipende dal contratto che hanno, di solito lasciano, non vengono più al piano, cioè lo lasciano addirittura nel portone, dicono no signora non posso salire, anche perché c'hanno il furgone carico di merce, certe volte lasciano gli sportelli anche a mezzi aperti e lì ci stanno un po' come a depredarglielo, E viviamo brutti tempi, capito già, non ci possono fidare anche loro, tu sai cos'è, perché non fanno firmare, non controllano il documento, perché fanno più in fretta. c'è, bussano, se rispondi in 2 minuti, e lei sì, a posto, e si fanno tante consegne così, poi se si arrivi lì, apre quello, magari è in tenuta da casa, in pigiama, allora deve tornare indietro, cercare il documento, riscendere, fargli vedere il documento, poi deve firmare, capito, ci perde un bel di tempo così. Sì, ma almeno mettimelo nell'ascensore, c'è l'ascensore, no? Gli mando l'ascensore, me lo metti dentro, io lo chiamo, non sto a scendere, e invece non te lo mettono manco nell'ascensore. E un amico mio a proposito di rubare così dal furgone, in via Giugia Spruri, stava scaricando del pollame e praticamente ha lasciato gli sportelli aperti, prendevano la cassetta all'altro. Ah, non so che gli hanno rubato i polli, lui se ne è accorto, li ha perseguitati, cazzo, c'è che correvano come conigli. Hanno preso 4 polli, cazzo, questi qui con 4 polli, 2 da una parte e 2 dall'altra, in 2 erano, le hanno attaccati e si sono messi a correre per le vie di Sassari con i polli in mano, ma te li immagini? Proprio quel modo di dire, l'area di polli o ruba galline, se esistono ancora, e vuol dire che c'è fame già, un bel di fame. Poi un'altra volta mi è successa una cosa, questo qui, vedo questo tipo con la faccia terrorizzata via Cagliari, io ero a piedi, stavo salendo, e sento i carabinieri erano appresso, e lo prenda, lo fermi, lo fermi! Io ho fatto finta di nulla, e ho visto gli occhi sbarrati, questo qua, cosa aveva fatto questo qui? Aveva visto la macchina carica di spesa, gli ha spaccato il vetro e si è rubato la spesa che c'era dentro. Deve essere che era affamato, poveraccio. E guarda, devi vedere solo la faccia, il carabiniere correndo gli è volato il cappello, cazzo. Gli si sarà spenta la fiamma del cappello. Questo mi è passato proprio a fianco, con la faccia terrorizzata, gli occhi sbarrati ci aveva, la faccia terrorizzata. Ma mi manca prima una persona del genere, io potevo fare una caretta e gaggia, però mi sono fatto gli affari miei, cosa mi metto a fare il carabiniere? Io non sono carabiniere, con lui lavoro, questo ve lo fate voi, non devo rischiare io per voi, magari se va un cucino, dopo che lo fai cadere, prende il colpo e le dici sì. Ma ho sentito anche altre cose strane. Cioè, se c'è un inseguimento di carabinieri o polizia che insegue qualcuno, non bisogna mettersi in mezzo, perché uno, io l'ho letto su internet, adesso prendila per buona, questo praticamente è andato a bloccare questo ladro, non ho capito bene se ha cercato di afferrarlo o roba del genere, no? E non ho capito se questo era accaduto, se era fatto male, poi si era preso con i carabinieri, insomma il fatto sta che il capoccia dei carabinieri si è premurato di denunciare la persona che ha agito in favore loro peraltro per interferenza in azioni di polizia, adesso non so l'articolo di legge quale sia, però sapevo che c'era, non deve interferire con le cose, anche se lui voleva agire a, come dire, mi sembra un controsenso, ma voleva agire in funzione loro, non bisogna mai mettersi in mezzo, quando dicono me lo fermi, no, quello è lavoro loro, non devi non fare nulla, né per favorire il fuggitivo e né per bloccarlo, però l'articolo di legge non mi ricordo qual è. Capito, a questi livelli, pensa, c'è lì quello che comandava, che si è premurato di denunciare la persona perché si è messo in mezzo, anche se, però non ho capito il perché ci si è messo, cioè, abbiamo reagito così i carabinieri, o il tipo è caduto, si è fatto male, magari si era preso con i carabinieri, allora loro si sono rifatti su questo che voleva aiutare loro poi. Sì, ma poi Marco, questo qui era sparato, se io andavo a fermarlo magari mi buttava in terra anche a me, era sparato, lui era terrorizzato e correva un bel, questi qua erano molto più lontani i carabinieri, lui li aveva staccati di una cinquantina di metri, più si aveva ribigliato, non l'avranno preso sicuramente perché correva come una saetta. Invece, per esempio, ho visto su video correre poliziotti inseguendo gente, però con tutto quell'armamentario che hanno alla cintura, pistola, manette e non so cos'altro di me, adesso gli danno una marea di roba, ha un certo peso, e vedevi il poliziotto che sotto il peso del cinturone non riusciva neanche a correre. La pistola pesa, non ti credi che è leggera. Sì, adesso c'hanno anche quella pistola elettrica, il taser, come si chiama. Sì, sì, perché guarda, in certe città c'hanno di tutto, c'hanno la pistola, magari anche il caricatore di riserva, presumo, le manette, il taser, il piccolo sfollagente, quello corto, e poi il porta, lo spray al peperoncino con relativa fondinezza. Quella roba, se tu vai a pesarla, pesa, quando corri questa roba sbatte e ti sbilancia in modo terribile. A che ore sono, Marco? Sono le 8:15 già, se devi portare il cane, girami. Io ancora una quarto d'ora ci sto e poi vado. Non sto bene, Marco, non sto bene. C'ho questo mal di pancia forte, non capisco cosa sia dovuto. Ho mangiato una fettina di cavallo a pranzo, l'insalata e un arancio. Boh, non ho già mangiato altro. Ho cominciato questo attacco di gusci, oia. Stavo cercando quell'articolo di legge, quella cosa che avevo letto, però boh, non lo so, però quello che bisogna essere proprio figli di nessuno è per denunciare uno che voleva aiutarti a catturare tipo il ladro o quello che era. È proprio gente malfidata. Allora io ho amici poliziotti, a me mi hanno detto che se io vedo uno che sta violentando la tipa o uno che ha fatto uno scippo, cosa, lo posso fermare. Lo posso fermare e tenere bloccato sino a quando arriva la polizia, il carabinieri, eccetera, eccetera. Però tu vai a prenderti la responsabilità e fare una cosa del genere, magari c'è l'altro e ti pugnala, ti fa. Ci sono sempre cose che devi stare attento facendolo, a parte che uno che si fa gli affari sui capace entrambi non va incontro né a problemi né niente, perché poi magari tu vedi quello lì è andato a fare il fin di bene quello che ha fatto e si è ammigliato la denuncia, quindi conviene se non a un certo punto a fare certe cose. Io una volta, vabbè, ho chiamato l'amica mia perché nel suo palazzo c'era qualcuno che li bucava tutte e quattro le gomme, ogni mattina lei doveva chiamare il gommista e farsi aggiustare le gomme, alla fine le ha dovute cambiare perché avevano talmente tanti buchi che non poteva più ripararle e non si capiva chi era. E un giorno io sono andato, vabbè, era nel palazzo di mio suocero, no? Sono andato a vedere mio suocero era in garage, ho aperto la porticina e l'ho beccato in pieno mentre stava bucando le ruote. E questa qui era un'amica mia, l'ho chiamata, grazie, scendi giù che l'abbiamo beccato che ti buca le gomme. Ed era uno del palazzo, un uomo anziano, perché dice gli dava fastidio la macchina messa davanti al garage del padre, capito? Gli dava fastidio. Che cosa importava? Lui dice che le macchine o vanno messe in garage oppure non vanno messe in cortile. E praticamente li ha chiamati i carabinieri, sai cosa hanno detto i carabinieri? Pensavamo che fosse un ragazzo, cosa, ma una persona anziana, cosa gli facciamo? Sì, infatti. Ma comunque mi sono ricordato quell'episodio di Panino di Palmadula, il CB, che c'era tutta roba anche amatoriale, lineare, direttive. Io l'ho sentita così, quindi te la ridico così, ti ricordi? Purtroppo, vabbè, imprudenza sua, c'erano due tipi alla deriva, con una barca stavano andando alla deriva, e tant'è che la capitaneria non li copiava, e poi questi credo fossero tipo due carabinieri, lui li ha aiutati, ha chiamato capitaneria o chi di dovere a dire che questi non riuscivano a contattare, lui li ha contattati in qualche femarino, credo. Insomma, ha dato nome e cognome suo in buona fede, li ha aiutati a avere i soccorsi e questi erano due carabinieri, per puntiglio, perché potevano chiudere un occhio anche l'altro, perché quando vogliono chiudono tutti e due gli occhi e anche spesso e volentieri, niente, si sono premurati di accertare tutto quanto, insomma l'hanno denunciato perché lui aveva una stazione radio ben oltre il concesso, capito? C'era VHF marini, amatoriali, HF, direttive, lineari, ma uno poteva star zitto oppure tirare l'orecchio e dire occhio, tu c'hai questa roba, mettiti a piombo, rifacciamo un controllo tale giorno, ma mettiti a piombo, non andare così a tradimento. Io li avrei lasciati alla deriva, a sapere li avrei, tanto non morivano, sarebbero sbarcati in Spagna. o in Tunisia o in Francia, non so la direzione quale fosse, morirono o morivano, per dire, se la ricordi con la storia? No, non ricordo manco chi era il tipo. Franco Panino di Palmadula. Franco Panino di Palmadula. E una volta mamma ha insegnato a Palmadula e nonno lo accompagnava in macchina, no? E c'ero anch'io e mi aveva fatto vedere la stazione, avevo il baracchino in macchina, lui tutto orgoglioso ti faceva vedere tutto, linearoni, cose, direttive. E così ha fatto con questi che sono andati a controllare, però e lì. E tu dici, ma loro se sono al corrente devono applicare la legge, ma le leggi per i nemici si applicano, per gli amici si interpretano, capito? Allora, te ne dico una, io ho un amico a Roma, mi ha raccontato, lui fa il cacciatore, però lì a Roma, a Terni, con la zona lì ci sono cinghiali che sono il doppio dei nostri e usano Winchester come fucile. E praticamente lui ce l'aveva appeso in casa e un amico gli ha detto, ci vieni a cena a casa, se qua sono con un amico, se non ti dispiace lo porto. E lui ha detto, vabbè porta, non c'è problema. Va con questo amico, questo qui era un carabiniere, gli ha visto il fucile appeso e gli ha detto, no, io adesso devo procedere perché il fucile lo deve tenere in un armadio particolare, una cassa tipo cassaforte, roba del genere, perché così appeso non lo può tenere. E gli stava facendo casino, capito? Ha detto mai invitare altra gente se non conosci, perché non sai mai chi ti metti in casa. E quelle sono tutte cazzate. Io lo tengo dove cazzo mi pare il fucile o la pistola e non sono cazzi tui. L'importante è che tu non possa raggiungerlo e prenderlo se non sei autorizzato. Hai capito? Non ce ne vuole l'armadio blindato. E io lo tengo dove cazzo voglio il fucile, che sono in casa mia. È vero, l'ho letto l'altro giorno, in realtà non c'è l'obbligo, è consigliabile, ma non c'è l'obbligo di legge. No, se non ci sono bambini o persone non autorizzate, non è obbligatorio metterlo l'armadio blindato. Io questo non lo so, lui sarà messo perché dopo che è successo a Prada, ma sarà messo, lo teneva dito di uccidere, le munizioni lo trovano da una parte, eccetera, eccetera. Purtroppo lui viveva da solo, quindi non aveva nessun problema, non ha capito. No, ci sono le telecamere, cazzo. E c'è mia moglie solo, bambini non ne ho, quindi la posso mettere dove cazzo voglio la pistola, o il fucile. Io la tengo scarica, senza caricatore, niente. Il fucile è lo stesso, sempre scarico. Però potete tenerlo carico e dietro la porta, volendo. Perché io sono in casa mia. No, la pistola vuole carica e messa sotto il cuscino. Ma chi viene qui a rompermi le balle? Che se viene qualcuno a rompermi le balle lo vedo dalla telecamera, lo dirà balla Grugusini. Porra! Sì, da Torino è sempre tipo Rambo, mi. Oia, cosa ti volevo dire già? Quella storia che hai accennato, a cui hai accennato prima, che puoi fermare la persona, non solo, ma c'è l'articolo di legge che dice il cittadino è come che potessi fare, adesso io dico il termine sbagliato, un arresto, in realtà è un fermo di polizia. Cioè tu vedi il ladro rubando che scappa, tu lo puoi fermare in base all'articolo 8, è come che tu fossi un pubblico ufficiale che lo sta fermando, lo sta trattenendo sul posto e non solo, ma se lui rischia di scappare mentre tu ce l'hai tra virgolette in custodia è come se facesse reato di evasione. però nessuno si prende una responsabilità simile. È come che tu stessi facendo le veci del pubblico ufficiale a tutti gli effetti. Se lui ti pesta per scappare, incorre negli stessi reati che non mettendo le mani addosso a un poliziotto o a un carabiniere, per dire, per farla breve. Però credo è un articolo che cioè, nessuno lo applica, prima perché deve avere due palle quadrate magari, e nessuno poi si prende le grane legali, perché poi devi andare in tribunale, devi testimoniare, è una cosa che non finisce più, quindi nessuno lo fa, nessuno. Però ci sarebbe, o almeno c'era l'articolo di legge, non me lo ricordo più qual è. Natalita, lo ricordi questo? Qualsiasi cittadino può fermare il ladro o il rapinatore o chi che sia. Neanche la polizia ti può arrestare, ti ferma la polizia, poi chi ti arresta è il pubblico ministero, perché la polizia è sotto il tribunale, hai capito? Manco loro ti possono arrestare, ti buoni prima in attesa di convalida che è data da un giudice, capito? Quando lo prendono e lo portano via con la pattuglia, quello è il fermo, poi l'arresto viene convalidato dal giudice, diciamo, il vero e proprio. Senza quel requisito non è un arresto vero e proprio, ma è un fermo di polizia. È un fermo e la polizia non ti può arrestare, né un poliziotto, né un carabiniere, nessuno ti può arrestare, solo il giudice ti arresta. Eia. Però sai che quella è una rogna, cioè, tu poi devi testimoniare, mamma mia, per carità, non finisce più sta storia. Non so, già, una cosa, tu hai fatto l'esempio della tipa che viene violentata e tu hai il dovere di intervenire, ti ricordi quella cosa lì? Sì. Allora, in realtà, per la tua incolumità potresti non intervenire, però devi allertare le forze dell'ordine. Adesso ti dico un caso di cronaca recente. Allora, sul treno una tipa molto recentemente è stata violentata, non so se da uno di questi zulù che arrivano dall'Africa o da qualche romeno, buoni anche quelli. C'era uno che sul treno ha visto la cosa, non solo non è intervenuto perché non è tenuto anche per la propria incolumità, anche se uno poi di istinto, di pelle lo fa, però era tenuto, vedendo il reato, a avvisare l'autorità giudiziaria. Questo, sbattendosi le palle, ha cambiato carrozza e non ha neanche avvertito le forze dell'ordine, bastava la chiamata al 112. Beh, credo che sia stato denunciato o sarà denunciato per quella è l'omissione di soccorso, il non aver allertato le forze dell'ordine. Cioè l'omissione di soccorso non è intervenire fisicamente, quello per la propria incolumità credo nessuno più lo faccia, perché magari ti becchi una coltellata e è finita la tua vita. Però il dovere di chiamare le forze dell'ordine ce l'aveva e non l'ha fatto, per dire. Denunceranno per omissione di soccorso, come è giusto che sia. Beh, quello è proprio fregaccio, cioè tu vedi una ragazza in difficoltà non l'aiuti. Per dire, quello di Porto Sant'Antonio che stavano rapendo quella ragazza, se non ci fosse stato quel tipo che gli ha messo le mani addosso, che era di chi si chiudiano i voci, quella ragazza l'avevano rapita, capito? La stavano rapendo ed erano quei negri e cose che la stavano caricando in macchina a forza, quello l'ho visto così, è andata alla difesa, capito? E ha fatto li ha fatti arrestare, li ha fatti arrestare tutti. Io ho visto proprio l'arresto quando praticamente gli ha caduto il cellulare a quell'epoca, ha detto il cellulare non me ne frega niente, vado in macchina, cosa il cellulare, ci rendiamo noi. E per dire, li hanno presi tutti e due quelli che lo stavano caricando a forza in macchina, questo ragazzo era lì al bar e cosa li ha visti e l'ha difesa e ha fatto bene. Però sai come va a finire in certi casi, Gianni? Loro dicono va bene, ci hai beccati, ci ha fatto arrestare, però noi ti denunciamo per percosse, perché purtroppo anche guidati dagli avvocati noi andiamo in galera per quello che abbiamo fatto noi, e tu magari dici vai in galera perché ci hai aggrediti, poi che sia giustificato o meno, noi ci abbiamo avuto dei danni fisici, ma lo sai che addirittura se ti entra il ladro in casa magari quei rumeni che sono violenti e armati pure, gli spari, lo ammazzi e i parenti ti vanno a fare causa, e magari certi giudici gli danno ragione, ti vanno a fare causa per risarcimento che gli hai ammazzato il parente. Ma questa è fantascienza, questa roba in Italia non dovrebbe succedere, ma non solo in Italia, da nessuna parte del mondo. Stiamo arrivando a cose proprio ai confini della realtà, capito? Da fare dipende. Ehi, vengano qua, mi denuncino perché gli ho ammazzato il parente. Se muore dentro, manco ti indagano, dentro casa deve morire. L'importante è non tolga il naso fuori dal gradino di casa. Sì, ma sai com'è già Natalì? Che magari anche se muore in casa, perché tu hai ritenuto che la tua vita fosse in pericolo per qualsiasi ragione, ti è sembrato che fosse armato, poi che ne so, uno gli piglia il coltello dalla cucina e glielo mette in mano, un coltello qualsiasi. Se trovi di quei giudici che credono, cioè i parenti ti fanno causa a priori, poi dice se va bene, bene, ci guadagniamo, ce l'ho pazienza. E magari qualche giudice, tipo quelli di sinistra, no, che ha la bocca piena sempre di diritti, anche il rapinatore che è stato ucciso aveva i suoi diritti, bla bla bla, danno ragione ai parenti, sono capaci, quei giudici di sinistra di solito. No, ma adesso c'è la legittima difesa dentro casa, no? È ammessa, capito? Quindi se uno entra e non è invitato, tu lo ammazzi e non ti fanno un cazzo, manco ti indagano. E poi è sempre meglio un processo che un brutto funerale. Ah no, e cosa vieni tu, cazzo, ammazza a me. Io prima ti sparo in bocca, così proprio non ti muovi. E da voi, in cammino di Assaconzaro Barrio, quando lo spari in bocca uno lì blocchi i centri nervosi, capito? E crepa subito. E invece io avrei dato la libera vendita per il Tesser, di modo che ognuno si difenda in casa sua. Quello lì non ammazza, ti blocca e ti fa arrestare. Boh, basta, fatto un yugo. Così almeno tu c'hai un'arma che non ti ammazza e riesci a bloccare lo stesso il ladro senza fargli niente. No, tubo di ferro ci vuole, o coltellaccio, da macellaio, lo sgatto. C'ho quello mi per disossare io, lo sai come ci entra. Manco badi di un ladro. Allora ci vuole il migliore, il tubo innocenti. Mezzo pollice, vi ricordo affrontimi, allora menti vara, come una pera cotta. Il tubo innocente è il migliore, cioè ti come mazzera belga, ma è troppo americana quella, basta una cosa nostrana. Oh, c'è gente comunque folle, adesso a parte di sì, c'è gente folle che magari vede il ladro in casa che gli sta rubando, ma che ne so, un videoregistratore trobbiato che varrà 10-20 euro e gli spara. Anche quello non è giusto, cioè entrasse qui non posso ammazzare un uomo per 20 euro di. Tanto più se sta se è disarmato e sta scappando. C'era stato quel caso di quel tipo che i ladri erano scappati già in strada, lui si è affacciato al terrazzino e con la 357 gli ha sparato nella schiena. Quello è eccesso di difesa vera e propria, infatti credo che no, sicuramente era stato condannato. Ma non è giusto, Marco, che i ladri entrano in casa tua quando è di tua proprietà e si riscano e ti mettono tutto a suo quadro, la cosa ti tocchi la roba tua. Io sono una persona che ci tengo molto alle cose mie, non mi piace che gli altri fugano nei cavoli miei, e loro ti buttano tutto in terra, ti fanno un casino nero in casa. È giusto secondo te questo? Non è giusto, no, no, giusto no, Gerone. Guarda che togliere la vita a un uomo non è da porre la schiena, ma un po' di disordine, non so quello che sia, però se vedi poco che si sta avventando, e allora lì hai campo libero. tu hai che quello che ha sparato alla schiena del ladro va condannato, anche in America è così, perché solo la polizia ti può sparare alla schiena. Se tu lo spari alla schiena, ti stai accanendo, in poche parole, perché la fuga è ammessa. Se uno sta scappando, lo devi lasciare scappare. Tu se te lo trovi faccia a faccia gli puoi sparare, ma no alle spalle. Ci sono documenti che sono catalogati in casa, cosa te li mettono tutti a suo quadro, non capisci più un cavolo. Ma chi era che non usciva? Gianni Natalino, ho visto una portante. Anche io, si sentiva un telefono. No, qua io stavo parlando ma il telefono non è usato. Oh, si sentiva, prima di parlare tu, si sentiva questa portante a fondo scala qua. È un telefono, mi capito.